America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. US government contractor with top secret national security clearances has been charged stealing information while working at the National Security Agency, the NSA. Ecco, ricorderete John Snowden, National Security Agency, grande scandalo, rivelazioni di segreti di questa agenzia per il controspionaggio americano. Snowden, ve ne ho parlato l'altro qui in trasmissione, perché c'è stato anche un film, lavorava per la Booz Allen, un contratto appunto di questa agenzia. Che è successo? Beh, c'è un altro fatto molto simile. In gran segreto l'FBI l'agosto scorso ha arrestato Harold Thomas Martin, che lavorava per la Booz Allen per conto della National Security Agency. Cosa ha fatto? Ha rubato una serie di codici top secret che erano stati costruiti per hackerare sistemi informatici di Russia e di Cina ed è stato beccato. A questo punto rischia fino a 10 anni di prigione. Beh, la notizia di ieri dunque interessante e curiosa, ma ci riporta un'altra notizia di cui vi ho parlato qualche giorno fa, che conferma come poi la giustizia americana si muove abbastanza rapidamente. E il caso di cui parlavo qualche giorno fa era secondo me eclatante, perché era di Kathleen Kane, alto magistrato che in questo momento è in attesa di giudizio. Sentiamo. Kathleen Kane is guilty of all charges. Kane was convicted of leaking secret grand jury information and lying about it. Ecco, avete sentito il newscast, dice Kathleen Kane è stata riconosciuta colpevole di 9 capi d'accusa, ha rivelato informazioni riservate al Dipartimento della Giustizia e ha mentito sulle sue azioni. Ecco, lo ricorderete, Kathleen Kane, 50 anni, ex procuratore generale della Pennsylvania, devo dire, tra l'altro con una brillante prospettiva di carriera politica, era un astro nascente del Partito Democratico. Di fatto cosa ha fatto? Ha rivelato degli interrogatori secretati del Dipartimento della Giustizia che imbarazzavano un suo concorrente, perché in America si corre per questa carica, quindi lei doveva correre di nuovo, doveva farsi eleggere, e c'era questo signore Frank Fina che era molto forte. Quello che a me colpisce è che magistrati che rivelino dei segreti istruttori o delle registrazioni che dovrebbero essere secretate, in America vengono beccati, e anche se sono importantissimi, alla fine finiscono in galera, perché qui ci sarà poi il 24 ottobre una sentenza e questa signora rischia fino a 14 anni. Da noi questo non succede. Io ne ho già parlato la settimana scorsa con l'ambasciatore romano per avere così un'opinione supra partes di queste diverse culture. Oggi lo faccio con una voce interna al sistema della magistratura italiana, che è quella dell'ex procuratore Piero Toni, autore del libro Io non posso tacere, confessioni di un giudice di sinistra. Buongiorno dottor Toni. Buongiorno, sì, buongiorno. Buongiorno, ecco, buongiorno a lei. Riassumiamo, i nostri ascoltatori un po', questo ovviamente lo sanno, ma lei ha scritto un libro su questo. Ci dia degli esempi, secondo lei, eclatanti di come alcuni dei nostri magistrati possono abusare di quello che è il segreto d'ufficio. Cosa significa abusare del segreto d'ufficio? Ma senta, abusare del segreto d'ufficio, innanzitutto nel mio libro non ho mai indicato casi particolari per ovvie ragioni, ma i giornali, le cronache sono piene di questi episodi. Al momento in cui una persona viene iscritta nel registro delle notizie di reato, che vorrebbe dire niente o meno che niente, e tutti sanno tutto, e la notizia in prima pagina sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato, e in qualche modo, qualche volta rischia e qualche volta lo fa veramente, cioè riesce a deviare il corso delle elezioni, voglio dire, queste cose sono successe e succedono da anni e sono la patologia, c'è chiaro, perché non è, certamente non è la fisiologia. Ecco, ma perché questo succede? Perché ci sono alcuni magistrati che hanno questa tentazione di passare le carte ai giornalisti? Ma io ritengo che possono essere ipotizzabili varie motivazioni. La motivazione principale è il presenzialismo, la vanità, la prima pagina, il titolone. Poi ci sono, visto che da noi, come tutti sanno, esiste anche la chiamata diretta di ex magistrati o comunque la possibilità di fare politica, ci sono anche sicuramente delle velleità politiche che possono giustificare questo. È certo che sono 50 anni che si scrive di tutto ciò, cioè del correntismo come trampolino di lancio spesso per fare politica e così via. Correntismo, dice, scusi, correntismo all'interno della magistratura, all'interno, cioè correnti politiche. Sì. E molto spesso si è visto che persone più attive nelle correnti della magistratura e più attive anche in indagini clamorosamente mediatiche sono poi passate tranquillamente a fare politica a tempo pieno. Però torniamo adesso, abbiamo fatto il contesto, all'America. Secondo lei è giusto che ci sia un sistema che punisce chi abusa di questo potere, e quindi forse dobbiamo cambiare qualcosa nella legge, perché mi sembra di capire che non ci siano poi gli strumenti per poter procedere? Noi in un caso come quello che è successo in America avremmo sì e no qualche contravvenzione, oltre al reato di cui l'articolo 326, che sarebbe la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, e poi c'è la contravvenzione della pubblicazione, che è una cosa irrisoria, arresto o, e sottolineo, o ammenda fino a 1.000 euro. Non ci sono reati che in qualche modo potrebbero giustificare le dimensioni della risposta giudiziaria americana di cui stiamo parlando. Quindi, per esempio, il Consiglio Superiore della Magistratura non ha responsabilità nel non perseguire questa cosa, o ha degli strumenti per farlo? Questo potrebbe, il Consiglio Superiore della Magistratura potrebbe sicuramente, sotto il profilo disciplinare, perseguire un fatto di questo genere, ci mancherebbe altro, soltanto che purtroppo non sempre, ma in molti casi anche lì si fa con il criterio dell'appartenenza, la politicizzazione e tutto il resto. Allora, come si scelgono i capi degli uffici, o si sono scelti in passato ma continuano probabilmente a scegliersi secondo la forza della corrente che li sostiene, così se una persona commette delle malefatte, e qualche volta raramente ma le commette, si fa il conto della sua forza politica. E non lo dico io, ma lo hanno detto anche gli attuali capi vertici dei vari uffici giudiziari italiani più importanti. Allora, conclusione, lei cosa suggerisce? Cosa vorrebbe? Ma io credo che, l'ho detto e l'ho scritto da sempre, che la privacy ormai è un qualche cosa che è come il dodo delle isole Maurizio, non esiste più, perché però vi è ragione di sicurezza e di altro, non esiste. E proprio per questa ragione, siccome siamo radiografati e ci sono big data di tutti i generi che hanno tutto di noi, qualsiasi utilizzazione distonica dei dati che vengono acquisiti per ragioni istituzionali, qualsiasi utilizzazione distonica dovrebbe essere punita in maniera severissima. Solo questo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vede più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americano24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me i microfoni di America 24, Piero Toni. Beh, abbiamo parlato così di violazioni del segreto istruttorio, del fatto che non ci siano punizioni. Le chiederei una canzone, c'è qualche canzone americana che la ispira? Visto l'argomento che abbiamo trattato, per esempio George Harrison. Certo, George Harrison. Allora andiamo con George Harrison, che ha fatto una canzone, Sue Me, Sue You, Blues. Io ti porto in tribunale. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!